notte senza ragione di nubi nel cielo io mi innamoro. Dal rosso vermiglio all'ambra dorata, io qui rimango a guardare il tramonto. E nella brezza bella e pacata si infrangono sogni incantati che affronto. Siamo i tempi distanti, l'anima è l'eco del mio passato. stelle.